Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo, ogni tanto riusciamo a occuparci, quando la cronaca non è troppo travolgente, di temi più di approfondimento, e oggi ci occuperemo del trasporto merci in Italia, che da sempre è un problema in questo paese, come media del trasporto delle merci su ferrovia rispetto al resto d'Europa. Il motivo di cronaca in realtà c'è, perché oggi, alla presenza anche del ministro Delrio, le Ferrovie dello Stato hanno presentato il nuovo soggetto che riunisce, poi lo spiegheremo, tutte le attività del settore merci delle Ferrovie dello Stato, e si chiamerà Merci Italia Logistics. Qui la distinzione vale tra: un conto è la parte della rete ferroviaria che è sotto RFI, e questo vale anche per il trasporto merci; altra cosa è chi sopra vi mette i vagoni, e in questo caso vagoni merci. Ne parleremo con l'amministratore delegato di Merci Italia Logistics, società oggi fondata e annunciata che raggruppa tutte le attività del gruppo FS, con appunto Marco Gosso. Anche alla luce della dichiarazione del ministro Delrio, che ha prospettato investimenti importanti per i prossimi anni, per portare al 2020 e poi al 2030 l'Italia a una media a livello quantomeno europeo. Parleremo anche, come sempre, della borsa. Per quello che riguarda la giornata di oggi devo dire che l'indice FTSE MIB è poco variato, -0,1%, Parigi identica invariata, Francoforte +0,60%, Londra invariata, il Dow Jones è chiuso, gli Stati Uniti sono chiusi, è il President Day e quindi non c'è il cosiddetto faro di Wall Street. Tra i titoli segnalo ST Microelectronics +2%, Eni +1,30%, Buzzi +1,1%, come Fiat Chrysler, Eterna, l'1% lo guadagna Moncler ed Exor. Fronte opposto, Banco BPM -2,60%, Generali -1,60%, Poste Italiane -1,40%, Mediobanca -1,20%, Enel -1,1% come Unicredit, Biperbank -1% come Ubi, Telecom -0,80%. Faccio notare che invece alcuni sondaggi in Francia, che vedrebbero la Le Pen nettamente al primo turno avanti rispetto sia ai socialisti che ai gollisti, diciamo il centrodestra francese, hanno fatto aumentare lo spread ai massimi dall'agosto 2012 tra i BTP a 10 anni francesi e quelli tedeschi a 81 punti. La Marine Le Pen viene data al 27% contro il 20% che avrebbero al primo turno sia François Fillon che Emmanuel Macron, che è, diciamo, il terzo, chiamiamolo così, l'outsider nelle elezioni francesi. Per quello che riguarda il nostro spread, anch'esso si è un po' rialzato sopra la soglia dei 190 punti per la prima volta da lunedì. Ma ripeto, quello tra Spagna e Germania è a 136 punti, con la conseguenza che la differenza tra noi e la Spagna è di 58 punti base ancora. E questo per quello che riguarda la borsa in senso stretto e i mercati in senso più lato. Ancora parleremo, come già vi hanno ricordato i nostri GR24, della riunione dell'Eurogruppo oggi a Bruxelles, e domani vi sarà l'Ecofin, quindi ministri economico-finanziari allargati non solo alla zona euro. Dicevo ancora la questione greca in agenda, ma anche la situazione dei conti pubblici italiani con la revisione del PIL che è leggermente migliore rispetto alle attese, però Bruxelles poi aveva fatto sapere venerdì scorso che non vi sarebbe stata una grossa differenza nella correzione chiesta, cioè lo 0,2% pari del PIL pari a 3 miliardi e 400 milioni di euro. Devo dire che è arrivata una buona notizia oggi dalla Consip, al di là, diciamo, delle vicende che hanno riguardato la magistratura, ma di cui non ci occupiamo. La Consip, che è la centrale degli acquisti per la pubblica amministrazione, a proposito di spending review, nel 2016 è riuscita a portare a casa 700 milioni di euro di risparmi, risorse che riducono poi l'ammontare di altri interventi. Cioè, con 700 milioni di euro risparmiati avrei meno bisogno di aumentare le accise, immaginiamo, su tabacchi e carburanti. Ma questo per dire quanto, senza cambiare la qualità del servizio, si possa risparmiare da una centrale di acquisti unica nella pubblica amministrazione. Sapete che è stato fissato il prezzo standard, per esempio, delle siringhe, ce ne siamo occupati anche noi nelle settimane scorse. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Ci occuperemo, visto che delle volte ho dei déjà vu, così come quando vedo l'Eurogruppo che si occupa di Grecia, ho un déjà vu anche quando devo tornare a occuparmi di Alitalia. Ma il tema c'è tutto, perché? Perché il ministro Del Rio si è detto fortemente preoccupato della vicenda Alitalia, e una preoccupazione, diciamo, forse anche più forte del solito, per quello che riguarda la dichiarazione di Del Rio. Non sappiamo ancora se dal CDA all'Italia uscirà fuori qualcosa di chiaro. Oggi incontra i sindacati Del Rio per discutere la situazione dell'ex compagnia di bandiera. Problemi seri, sono preoccupato, così appunto Del Rio, che ha parlato anche dei taxi. Domani vi sarà un incontro, ha detto Del Rio, perché c'è una situazione a lungo tempo non regolamentata sul fronte dei tassisti. Dobbiamo metterci a sedere per fare una regolamentazione finalmente seria che tolga provvisorietà all'attuale situazione. Del Rio poi ha sottolineato che c'è bisogno di garanzie da un lato sui diritti dei cittadini, dall'altro anche sui diritti di chi ha investito nella propria azienda, che sono i tassisti. Faccio notare che oggi, con servizio sospeso nelle maggiori città italiane, c'è stata anche una tensione abbastanza forte. C'è un conducente a noleggio denunciato a Milano per minacce dopo aver puntato una pistola, che poi si è scoperto essere un giocattolo pure lui, contro i tassisti che gli avevano imbrattato l'auto di servizio con le uova ieri notte. Devo dire che ovviamente la reazione del conducente, infatti, è stato denunciato, però devo anche dire una cosa: degli scioperi abbiamo detto sempre tre cose per tutte le categorie, vale anche per i tassisti, poi la chiudiamo qui. Gli scioperi sono un diritto, per cui ci mancherebbe se i tassisti non hanno il diritto di protestare a fronte di una proroga contenuta nei mille proroghe della regolamentazione per gli NCC, in questo caso, che coinvolge anche poi indirettamente Uber. Però gli scioperi in questo paese per tutte le categorie hanno una loro regolamentazione, che deriva appunto dal fatto che non si possono fare scioperi selvaggi, e così non è avvenuto giovedì. Quindi migliaia di cittadini hanno scoperto sulla loro pelle che c'era lo sciopero. Gli scioperi si annunciano, si fanno, come lo sciopero dall'Italia, visto che parlavamo dall'Italia, in modo che uno si possa anche organizzare con mezzi propri o con i mezzi diciamo pubblici, perché arrivare in stazione o arrivare in aeroporto e non trovare un taxi senza saperlo non è una cosa da sciopero civile. Terzo aspetto: chi, come in tutte le categorie, non vuole scioperare non può essere minacciato, e a quel punto le tensioni che abbiamo visto, uno sciopera perché ritiene che quello sia una situazione, l'unica risposta possibile da dare, benissimo, ma in tutte le categorie, compresa quella di chi vi parla, cioè, ci sono quelli che scioperano e poi c'è una parte minoritaria o maggioritaria che non sciopera. Non è che la parte che non sciopera deve essere oggetto, diciamo, di minacce e quant'altro, per favore. E questo purtroppo ce l'hanno raccontato molti tassisti che poi vogliono mantenere l'anonimato. Quindi da questo punto di vista, mi raccomando. Allora, vedo già messaggi. Alcuni NCC mi dicono anche: noi abbiamo investito sulla nostra macchina. Non voglio entrare nel tema specifico, perché lo slittamento è stata una cosa, c'è sereno, per cui ne parleremo, stiamo seguendo la vicenda con i nostri GR24, ci mancherebbe. Però attenzione, ci sono dei diritti dei cittadini che non vengono giustificati semplicemente dal diritto allo sciopero e che non possono essere soppressi esclusivamente per il diritto allo sciopero. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo sugli altri temi. Petrolio oggi stabile a 53,7 dollari al barile. Per quello che riguarda invece i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, forse alcuni di voi hanno letto ieri la notizia anzi la notizia era dell'altro ieri per essere precisi, alcuni giornali l'hanno riportata solo ieri, ma insomma che Bill Gates ha lanciato l'idea di tassare che i robot che svolgono lavori umani dovrebbero pagare le tasse. Non è, adesso uno può pensare a un film di fantascienza, però siccome tra le varie valutazioni che si fanno di questa, diciamo, globalizzazione, di questa rivoluzione industriale che non c'entra nulla con la crisi finanziaria del 2008, ma che è in corso, dovuta alla rete non solo, beh, l'idea che insomma anche il robot possa pagare le tasse, poi bisogna capire cosa si intende per robot, se è una macchina, diciamo, che svolge alcune funzioni o un robot vero e proprio, io non sono un esperto ovviamente. Però Bill Gates è entrato su un tema vero, che poi è un tema che è diventato anche politico, ossia la perdita di posti di lavoro a causa della crescente robotizzazione che viene praticata dalle imprese a livello mondiale. Dice Gates: se un lavoratore guadagna $50,000 in una fabbrica, il suo reddito è tassato. Se il robot svolge lo stesso lavoro, si potrebbe pensare di tassarlo. È chiaramente una cosa in là, però pone un tema serissimo, come ci ricordano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Praterotti. Bill Gates ha lanciato la sua provocazione: tassare i robot come vengono tassati gli uomini, non tanto per pareggiare le condizioni competitive, quantomeno per non incentivare in qualche modo la disoccupazione creata da innovazione e automazione. La proposta non è nuova, il dibattito nemmeno, già dai tempi del luddismo si discute sulla sostituzione fra uomo e macchina e sul costo sociale di questa sostituzione, ma ora il mondo sta cambiando, la velocità con cui la sostituzione in tutte le mansioni del lavoro sta avvenendo, secondo Bill Gates, è tale da correre ai ripari. Detto da lui, cioè dall'uomo che ha inventato sostanzialmente il software di massa, il sistema di applicazioni informatiche su cui si regge la produzione, lo sviluppo di nuovi prodotti e i cicli di fabbrica, ma anche quelli dell'ufficio, beh, insomma, detto da lui, va sicuramente preso sul serio. Ma qual è il punto? La partenza di questa analisi, ovviamente, di Bill Gates viene dall'America, dove gli ultimi dati predisposti proprio dal Dipartimento del Lavoro sono un po' impressionanti. Beh, da lì viene fuori che in poco più di 10 anni, nelle occupazioni che erano quelle, diciamo così, di routine, dalla segretaria, portalettere e altre mansioni di questo tipo, diciamo di base, beh, dal 45% dell'occupazione americana in 10 anni sono scesi a circa il 32, e il dato continua a scendere. Occupazione e riqualificazione vanno insieme? Il punto adesso è tutto da definire, ma certamente sottovalutare la questione significa ignorare una sfida che in questo momento significa redditi, lavoro, occupazione e soprattutto significa stabilità e una barriera davanti a quelle spinte di malcontento e di insoddisfazione che sono alla base di gran parte dei problemi non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti con le altre notizie. Io adesso non voglio fare assolutamente la puntata sui tassisti, ne abbiamo già parlato. Ho detto semplicemente che lo sciopero è un diritto, che qualcuno mi scrive, però visto che il governo ha messo l'emendamento nottetempo, che è stato un errore inserire l'emendamento in quel modo, a mio avviso, e che è un diritto lo sciopero, che però, essendo il taxi, come rivendicano i tassisti stessi, un servizio anche pubblico, c'è una licenza e quant'altro, va regolamentato, e semplicemente bastava annunciarlo e non farlo all'improvviso. Una volta si chiamavano scioperi selvaggi. Alcuni mi fanno notare che qualunque investimento prevede un rischio riferito alla licenza dei tassisti. Ho capito, però poi la critica che viene fatta al governo è che tu non puoi distruggere un valore, un investimento in quel modo. Altri mi fanno notare che che il servizio sociale non viene garantito per i disabili, altri invece mi scrivono di ricordare i tassisti che stanno svolgendo il cosiddetto servizio sociale gratuitamente per le persone con maggiore fragilità. Dipende da città a città. Per quello che riguarda invece i cosiddetti crumiri, come si chiamano, si chiamavano una volta quelli che non aderivano allo sciopero, ma il discorso vale per tutte le categorie. È chiaro che chi non sciopera, se poi c'è un accordo di categoria, ne beneficia. Questo è sempre, vale per tutti, vale per lo sciopero dei giornalisti come vale per lo sciopero dei metalmeccanici. Quello che si è detto, che voglio dire, non si può nemmeno minacciare, e alcuni tassisti questo ci hanno raccontato, chi non aderisce per motivi suoi ritiene che non vi sia un problema o che sia sbagliato lo sciopero selvaggio, che sia sbagliato la modalità. Adesso no, lo sciopero ha determinati paletti anche per i tassisti, fermo restando il loro diritto a scioperare. Allora, ancora due notizie in breve. Dato sulle costruzioni, non è bello, continua il calo della produzione delle costruzioni in Italia nel 2016, meno 0,3%, e nella media dello scorso anno, dicembre, un po' di risveglio, più 1% sul mese, ma meno 0,2% sull'anno. E invece Italy, la catena di negozi fondata da Oscar Farinetti, di cibo italiano e non solo, anche ristorazione, che ha avuto un successo enorme per esempio a New York, aprirà anche a Mosca nonostante l'embargo. Magari nei prossimi giorni cercheremo di capire con Andrea Guerra, che è l'amministratore delegato di Italy, come faranno. 7500 metri quadrati a Kievskaya, a Mosca, vicino alla stazione della metropolitana di Kievskaya, e quindi con il modello già collaudato di unire i ristoranti al supermercato. Allora, andiamo in pausa pubblicità e poi il nostro ospite è amministratore delegato della nuova società che gestirà le merci per le ferrovie dello Stato, Merci Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cercheremo di capire che cosa manca in questo paese. C'è un dato su tutti, poi lascio la linea al meteo. Insomma, un cargo che attraversa Suez, poi ne parleremo, arriva a Taranto, a Gioia del Colle, ha una settimana di vantaggio, una nave cargo, rispetto a quanto poi ci mette ad arrivare al porto di Rotterdam o di Anversa. Eppure, nella maggior parte dei casi, si preferisce arrivare a Rotterdam e Anversa e poi trasferire le merci dal nord Europa al nord Italia o al centro Italia, piuttosto che sbarcarla a Taranto o a Gioia del Tauro, per non parlare poi degli altri porti. Da lì partiremo dopo il meteo. Focus Economia. Sì, parliamo del trasporto merci, tema annoso, si dice, in questo paese, perché da sempre sappiamo che la quota nostra del trasporto merci su ferrovia è una delle più basse in Europa, su rotaie per essere ancora più precisi, va tra il 6 e il 9% a seconda di come viene calcolata. In Austria, non sto di rimpettaio, anche nello scambio merci si arriva al 30%. Ma girandola all'opposto, noi siamo il terzo paese dopo Spagna e Gran Bretagna per la maggior quota di merci trasportate via gomma, con tutto ciò che ne consegue, sia sul traffico che sui costi. Rappresentano ormai l'85,9% del volume nazionale del trasporto merci, la differenza poi la fanno anche i trasporti via mare, quindi la parte cargo. Quindi l'86% viaggia su gomma, il restante 6/9 viaggia su rotaia, e poi c'è la parte cargo, intesa come le famose cosiddette autostrade del mare. Ma ne parliamo perché oggi il gruppo Ferrovie dello Stato, alla presenza anche del ministro Delrio, ha presentato qui a Milano il polo Merci Italia, ossia la società e il raggruppamento delle società delle Ferrovie dello Stato che operano nel settore del trasporto merci e della logistica. La capogruppo si chiamerà Mercitalia Logistics e poi Mercitalia Rail, e tutto insieme di altri soggetti. L'obiettivo è appunto avere un unico soggetto anche giuridico a gestire la parte del trasporto merci. Qui va messa una distinzione, perché in realtà la parte dei binari, e adesso vi arriveremo, perché per fare i convogli lunghi, detta male ma per farsi capire, serve anche il retroporto. Ne abbiamo parlato altre volte quando parlavamo delle attività portuali italiane, e serve un retroporto e servono anche, diciamo, delle misure diverse nelle gallerie, ma non solo. Ma di questo si occupa in maniera diretta RFI, Rete Ferrovie Italia. perché sono due soggetti diversi, lo scorporo era stato chiesto e ottenuto, un po' come è avvenuto anche nel mondo delle telecomunicazioni, un conto è chi ha i binari e un conto è chi su questi binari trasporta merci o persone, nel senso che RFI deve poi garantire la stessa possibilità d'accesso anche a altri soggetti che non siano, diciamo, di derivazione del gruppo FS. Però vorrei intanto capire il perché di questo nuovo soggetto, il polo appunto Merci Italia, con l'amministratore delegato di Merci Italia Logistics, che a questo punto è la subholding del gruppo Ferrovie dello Stato per il trasporto merci, dottor Marco Gosso, buonasera. Buonasera. Il nuovo polo, o meglio la parte, diciamo, delle merci, è l'unica parte del gruppo Ferrovie dello Stato che ancora viaggia in perdita. Intanto vorrei capire perché avete deciso di riunire con questo nuovo soggetto tutte le attività, Merci Italia Logistics, Merci Italia Rail, Gruppo TX Logistics, Cermat, Merci Italia Transport Services, Merci Italia Terminal, Teralp e via così. Perché all'interno di Ferrovie dello Stato queste società diciamo erano distribuite diversamente all'interno del gruppo, queste 10 venivano controllate da capogruppo e quindi non avevano una strategia condivisa e non si muovevano all'unisono. L'idea è ovviamente quella di invece far ricondurre tutto questo insieme di società in un unico raggruppamento che possa avere una strategia condivisa, che possa sfruttare al meglio le economie di coordinamento e le sinergie e possa soprattutto collocarsi sul mercato senza avere sovrapposizioni e senza avere gap di posizionamento. Ecco, in questo momento i conti del nuovo soggetto che raggruppa, come dicevo, varie attività sono in perdita, ma di quanto e su che fatturato? Allora, la ragione per cui il gruppo Ferrovie dello Stato ha lanciato questo progetto di risanamento e rilancio del business merci e che poi è uno dei 5 pilastri del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato, scaturita proprio dal fatto che questa attività non era più sostenibile. Basti pensare che tra il 2011 e il 2015 questa attività ha fatto registrare all'interno del gruppo perdite per 800 milioni di euro, 150 milioni di euro all'anno, con un trend, diciamo, che sostanzialmente non evidenziava miglioramenti significativi, e quindi si è deciso di lavorare per rilanciare questa attività. Perché? Perché era un'attività che, sebbene strutturalmente in perdita, non era considerata marginale, nel senso che ancora nel 2015 questa attività rappresentava grosso modo un settimo del volume d'affari complessivo del gruppo Ferrovie dello Stato e dava lavoro a circa 5.000 persone. Quindi abbiamo detto: cerchiamo di capire se c'è la possibilità di rimetterla come dire, sui binari e di rilanciarla. Quindi, diciamo, circa 1 miliardo di euro l'anno di fatturato, se ho ben capito, con però 150 milioni di euro di perdite all'anno, che vuol dire, mal contati, quasi 500.000 al giorno. Sì, questo nel 2015, diciamo, poi nel frattempo abbiamo cominciato a lavorare. Uh-huh. Nel 2016, ovviamente i bilanci sono ancora in fase di stesura, quindi sono dati ancora provvisori. Uh-huh. Comunque nel 2016 dovremmo aver più che dimezzato questa perdita. Il programma, la roadmap ci vede impegnati per raggiungere l'equilibrio economico nei prossimi 2 anni. Ecco, dicevo, tra l'altro voi avete 4.000 addetti e, se non ricordo male, 600 locomotori e 26.000 vagoni, quindi sì, una flotta importante. Veniamo alla parte che è anche forse più di interesse al di là del raggruppamento societario per chi ascolta, e vedo già molti messaggi a 349-238-6666. Che cosa manca a questo paese? Perché io mi ricordo che quando studiavo sorprenderò alcuni ascoltatori, ma ho studiato anch'io, e quando si studiava un esame che si chiamava geografia economica, tra le varie cose veniva detto: l'Italia ha una quota molto bassa, una delle più basse in Europa, del trasporto merci. Era al tempo, e vado a memoria, al 12-13, forse 14%. Nel frattempo io ho finito di studiare, senza gran risultati evidentemente, però la quota è ulteriormente scesa. Il che vuol dire che quello che veniva negli anni 90 già segnalato come un problema, un'atipicità italiana, è rimasto un'atipicità italiana. Allora, concretamente, che cosa manca? Per esempio, noi, affrontando il tema dei porti, abbiamo scoperto, tra virgolette, che la parte del retroporto, che è proprio il retro del porto, non ha in Italia gli spazi sufficienti. Mi riferisco anche a Genova, se non ricordo male, ma Genova, che è uno di quelli meglio gestiti, tra virgolette, non ha gli spazi sufficienti per creare i famosi 750 metri di vagoni, che sono quelli che chiede l'Europa, lo standard europeo. Noi arriviamo a 400 metri, 500 metri, cioè manca proprio lo spazio fisico. Aggiungo che, se non ricordo male, la sagoma deve essere dei nuovi trasporti merci di 4 metri, che vuol dire anche riammodernare non solo alcune gallerie, ma immagino anche i, come si chiamano, pantografi, la parte, diciamo, della rete elettrica soprastante il treno. Il pantografo in realtà è quello sul locomotore. Ho avuto anche i treni Lima e Rivarossi da piccolo, qualcosa ricordo, ma insomma la parte, diciamo, della rete elettrica. Allora, questo però non è di competenza vostra. Come vi muoverete con RFI? Perché senza questa parte voi potete fare tutto quello che volete, ma se non riusciamo a formare vagoni lunghi da 750 metri con un'altezza di 4, veniamo tagliati fuori anche dagli standard europei. Allora, partiamo dall'ultima parte della domanda, che diciamo è da un certo punto di vista la più semplice, nel senso che nell'ambito della cosiddetta cura del ferro che il Ministero dei Trasporti, il Ministro Delrio, ha recentemente lanciato, sono stati avviati attraverso Rete Ferroviaria Italiana tutta una serie di investimenti che nell'arco dei prossimi anni, diciamo da qui al 2020, permetteranno di ammodernare le principali linee ferroviarie merci, soprattutto utilizzate dalle merci in Italia, con l'allungamento del modulo, quindi per poter fare i treni a 750 metri, con l'allargamento del profilo, quindi per poter portare anche i semirimorchi PC80, quindi semirimorchi con altezza 4 metri, e per aumentare anche il peso assiale. Quindi diciamo, questa è work in progress, le risorse al sono 2020. State al 2020, sì. Le risorse, ma sono state allocate. Quali linee partiranno prima? Cioè, immagino che non sia tutto prioritario. No, certamente diciamo le linee che sono più avanti sono quelle che ci interconnettono ai grandi corridoi alpini. Mi riferisco per esempio alle linee di adduzioni al corridoio che attraversa la Svizzera, quindi con l'apertura del Gottardo, quella diciamo è quella che ha cioè, per rigirare la domanda, dov'è che per prima o per primi avremo modo di vedere questi 750 metri di vagone alti 4 metri come sagoma? Anche qui dipende da realtà a realtà, nel senso il corridoio che da Verona va verso il Brennero è già PC400, quindi PC80, quindi può trasportare semirimorchi alti 4 metri, ma non ha ancora il modulo a 750, quindi lì bisognerà lavorare. Attraverso i corridori che portano verso la Svizzera non hanno ancora il modulo a 4 metri, se non diciamo quelli che viaggiano attraverso l'Oesberg, si sta lavorando anche per aumentare il modulo. Credo che le priorità saranno appunto sugli assi che vanno verso i corridoi alpini e sulle due. Quindi Brennero, San Gottardo e la parte Genova-Torino? Il terzo valico ovviamente sarà un'infrastruttura importantissima per potenziare diciamo sia dal punto di vista della lunghezza del modulo che del profilo, e poi le due dorsali. La dorsale adriatica sarà la prima che verrà credo completata in termini di profilo, si parla della fine di quest'anno, e poi si andrà avanti a lavorare per quanto riguarda i moduli, e poi tutta la dorsale tirrenica. E che io lo legavo molto ai porti, chiaramente avere convogli da 750 metri importa anche dove non c'è il mare, nel senso che il porto intermodale che è su terra di Verona, per esempio come snodo, non ha a che fare col mare, ma hai bisogno comunque di creare questi convogli. Per quello che riguarda però nello specifico i retroporti, perché lì insomma chi conosce un po' Genova si chiede, ma dov'è che troverete lo spazio? Sì, c'è la necessità di alleggerire il traffico dai porti. Diciamo, noi lo chiamiamo retroporto, in realtà sono nodi della rete di trasporto che devono essere realizzati. Noi personalmente, come Polo Merci Italia, investiremo nel nodo di Milano, investiremo nel nodo di Brescia, investiremo nel nodo di Piacenza prossimamente, proprio perché saranno quelle cerniere che ci consentono di interconnettere le due dorsali nazionali con l'attraversamento svizzero, e quindi in questi nodi andremo a disaccoppiare il trasporto treno dal porto verso il retroporto, e poi il collegamento verso il corridoio internazionale. Allora guardi, adesso abbiamo il traffico, dottor Gosso, poi si fermi qua perché vorrei capire anche la parte di competenza, cioè chi dovrà fare gli investimenti e quali investimenti farete voi, perché ripeto, i binari sono di RFI, voi vi occupate di quello che viaggia sui binari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Marco Gosso, appunto amministratore delegato di Merci Italia Logistics, la società creata o annunciata oggi, che si occuperà di tutto, che riunisce tutte le società del gruppo FS per il trasporto merci. Andando avanti, fermo restando appunto, come dicevamo, che Rete Ferrovie Italiane per tutti deve garantire la parte infrastrutturale, cioè i binari, anche per gli altri soggetti privati che vogliono trasportare merci in questo paese. Quanti investimenti farà e quanti soldi dovrebbe mettere da qua il 2020 al 2020 per avere, diciamo, degli standard europei, appunto i convogli lunghi 750 metri, alti almeno 4 metri, e invece quanta parte metterete voi? Allora, come lei diceva, il trasporto su ferro in Italia ha perso quote di mercato. Le ragioni di questo sono molteplici, una è quella che abbiamo detto prima, l'altra riguarda davvero noi operatori, nel senso che una delle ragioni per cui abbiamo perso quote di mercato è perché non siamo stati in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo efficiente, quindi il camion da questo punto di vista è stato più bravo di noi. Ci sono altri paesi come per esempio la Svizzera o l'Austria che hanno messo delle regole del gioco tali per cui diciamo le diverse modalità possono sfruttare al meglio le loro potenzialità, e quindi per esempio il treno sulle lunghe percorrenze, la gomma sulle breve percorrenze. Allora, veniamo a un altro aspetto, nel senso che a noi interessa particolarmente, interessa anche, vedo i messaggi degli ascoltatori, qualcuno mi dice che Del Rio la cura del ferro dovrebbe proporla anche al PD, inteso immagino come ricostituente, ma non è questo tema del programma. Allora, c'è un altro aspetto che a me è sempre molto sorpreso. Noi, se non ricordo male, vado a memoria ma non dovrei sbagliarmi, una nave che attraversa lo Stretto di Suez e arriva a Gioia Tauro risparmia circa una settimana rispetto alla stessa nave che deve arrivare al porto di Anversa, e lì non ci vuole un genio della geografia per capire perché. Deve poi la stessa nave, altrimenti, attraversare tutto il Mediterraneo, lo Stato di Gibilterra, risalire la parte atlantica e arrivare poi al porto di Anversa. Ciò nonostante, la maggior parte degli operatori preferisce il porto di Anversa, perché è addirittura le merci nel nord Italia, sappiamo che arrivano molto spesso da Anversa, cioè si preferisce arrivare fino a nord, scaricare le merci, farle scendere nord Italia piuttosto che farle scaricare a Gioia Tauro o addirittura a Genova. Gioia Tauro è il caso più eclatante perché il risparmio è veramente significativo. Allora, su questo io non so se sia un problema di lunghezza dei convogli, ma temo che sia anche un problema di adeguamento della rete. Sì, sicuramente c'è il tema dell'adeguamento della rete, c'è il tema anche dei volumi di traffico. È evidente che chi si occupa di trasporto massivo ha la necessità di avere grossi volumi, e allora noi oggi abbiamo situazioni in cui trasportare un contenitore dalla Cina diciamo ai porti del nord del Tirreno costa sostanzialmente lo stesso che trasportarlo nei porti del nord Europa, forse a volte anche di meno, e poi da lì questi contenitori questo perché fanno più massa, perché ce ne sono di più, e quindi il costo fisso si abbatte, sì. E chi si occupa di trasporti massivi ha il problema di avere flussi bilanciati, e quindi diciamo io anche quando sento che ci sono i contenitori che arrivano a Rotterdam e scendono verso l'Italia anziché il viceversa, in realtà chi fa treni per portare i contenitori da Rotterdam verso l'Italia deve anche riempirli per farli tornare indietro questi treni, quindi in realtà l'opportunità, certo, ci sarebbe, è che oggi purtroppo costa ancora troppo caro attraversare le Alpi con i treni, perché bisogna utilizzare più locomotori per fare la trazione attraverso le Alpi, perché non si riescono a fare treni ancora sufficientemente lunghi e con profili sufficientemente elevati. Ecco, questi problemi, questo tipo di problemi verranno risolti con gli ammodernamenti infrastrutturali di cui parlavo. Scusi, ma perché Brennero prevederà nel raddoppio anche una minor pendenza? Sia Brennero che Gottardo prevederanno, diciamo, un attraversamento alpino come se il treno viaggiasse. Quindi senza bisogno del locomotore di rinforzo, sì, per farci capire. Però il problema del flusso, vado alla conclusione, è anche, come diceva lei, un po' quello che vale per i tir, cioè i tir che viaggiano vuoti al ritorno sono un costo. Ma noi siamo in grado di garantire non solo un flusso in entrata, ma anche un flusso in uscita, eventualmente penso a Gioia Tauro, ma non solo, perché è il caso che mi viene come più eclatante, ma penso anche a Civitavecchia, a Genova. Diciamo che questo è uno dei ruoli che avrà il Polo Merci Italia, nel senso che uno dei nostri compiti sarà quello di mettere in piedi una rete di servizi nella quale noi riusciremo a far convogliare volumi sufficienti da giustificare andata e ritorno e a gestire questi servizi con un ritorno economico. Ecco, vedo che molti ascoltatori, noi questa radio ha un accordo vero e proprio con il mondo, diciamo, del trasporto su gomma, che seguiamo con attenzione, abbiamo anche una rubrica quotidiana su questo, è una rubrica due rubriche settimanali per la precisione, non voglio essere impreciso sul palinsesto, vedo che alcuni dicono vabbè, ma il timore dopo la concorrenza spesso sleale dell'est Europa, adesso ci fa la concorrenza anche la parte delle ferrovie dello Stato che riguarda le merci. In realtà possono coesistere volumi, diciamo, di traffico su gomma e una intermodalità più spinta, o diciamo, tutto quello che verrà trasportato su merci, verrà rubata la gomma. Lo dico perché se per esempio noi riuscissimo a intercettare parte del traffico verso Anversa, verso Rotterdam, questo nulla cambierebbe per il trasporto su gomma, ma cambierebbe molto nel giro d'affari italiano. Cioè non devi far partire il convoglio da Rotterdam e non se ne beneficia il porto di Rotterdam, ma ne beneficiano i porti italiani, per esempio. Cioè c'è una sostituzione netta o c'è anche una possibilità di complementarità? No, io sono assolutamente convinto della valenza della complementarità, nel senso che io non credo la ferrovia senza gomma e non credo la gomma senza ferrovia. Dico semplicemente che dobbiamo dialogare. Lei pensi soltanto che la maggior parte dei nostri clienti sono autotrasportatori, sono operatori del trasporto stradale. Dico che noi dobbiamo sederci al tavolo con gli autotrasportatori, con le loro associazioni, per incominciare a guardare al sistema logistico complessivo e cercare di capire dove ha più senso utilizzare la ferrovia, ovviamente una ferrovia efficiente, una ferrovia che funzioni bene, dove invece ha più senso utilizzare la gomma e integrarci ed essere complementari. Senta, un'ultima domanda. Oggi il ministro Del Rio ha detto l'obiettivo è arrivare al 30% delle merci trasportate su ferrovia in 10 anni, quindi da qua al 2027. Ma visto l'andamento degli anni, dei decenni scorsi, è un obiettivo raggiungibile? È un obiettivo ambizioso, sicuramente. Certo, molto dipende anche dalle regole del gioco, come dicevo prima. La quota del ferro attraverso la Svizzera raggiunge quasi il 70%. È evidente che la Svizzera ha messo in atto tutta una serie di provvedimenti che hanno volti a tutelare ovviamente l'attraversamento alpino, i paesi di attraversamento alpino, che hanno portato le merci a spostarsi sulla ferrovia. Anche qui c'è una politica di governo del sistema di trasporti che in Italia si deve fare. Il ministro Del Rio sta facendo dei grandissimi passi in questa direzione. Io credo che un paese moderno non possa pensare di essere monomodale. Un paese moderno come l'Italia deve avere... C'è un'unica modalità di trasporto. Esattamente, esattamente. E quindi io ovviamente non credo che la ferrovia raggiungerà il 90% della quota modale, ma certamente una quota rilevante. Sì, questo sicuramente sì. Con dei costi più bassi? E questo di nuovo è un altro compito della nostra to-do list, nel senso che un'altra delle motivazioni per cui la ferrovia ha perso quota in questi anni è perché non è stata in grado di seguire le evoluzioni anche da un punto di vista tecnologico che hanno avuto i camion, e quindi è evidente che per poter stare sul mercato bisogna riuscire a dare dei servizi che siano in linea con le aspettative dei clienti dal punto di vista della qualità, ma che siano anche competitivi da un punto di vista del costo. Fare treni più lunghi, fare treni più pesanti, fare treni più alti sicuramente aiuta in questo senso. Allora, grazie, in bocca al lupo all'amministratore delegato della nuova società, appunto, Mercitalia Logistics, Marco Gosso, a lei e anche ai suoi 4.000 addetti. E grazie, viva il lupo. Allora, vedo ancora molte domande, se non potevamo fare tutta la puntata sul... Però il tema, vi torneremo, perché è un tema cruciale. Appunto, per non commentare solo l'attualità e la cronaca spicciola, cosa che dobbiamo fare delle volte, così come il tema dell'industria 4.0, molti mi stanno ancora scrivendo sull'idea di Bill Gates di tassare i robot. Certo che quella è una sfida ed è un tema che andrà posto prima o poi, se il tasso, in questo caso sì, di sostituzione tra macchina robotizzata e uomo andrà avanti con questi con questa proiezione, per cui a un certo momento non puoi pensare che vi sia anche un'agevolazione fiscale nel mettere un robot al posto di un dipendente, di un lavoratore. Vabbè, andiamo sulla borsa però adesso, perché la giornata si è chiusa per quello che riguarda Milano con un calo dello 0,15%, poca cosa. Parigi meno 0,05%, oggi è chiusa l'America, President Day. Londra invariata, Francoforte più 0,60%, tra i titoli Banco BPM meno 2,44%, Poste Italiane meno 1,60%, Generali meno 1,40%, e invece tra chi si è mosso bene, ST Microelectronics più 2,11%, Fiat Chrysler più 1,40%, Moncler più 1,20%, come Buzioni, Cemterna più 1% come Eni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il GR24 commenteremo con Paolo Paronetto la giornata, devo dire, non una giornata pazzesca, appunto era chiusa anche Wall Street. La cosa interessante è che Generali ha fatto sapere che ha 4,5% di Intesa in attesa della chiusura del prestito titoli, poi Leone di Trieste tornerà al 3,4% in Intesa San Paolo dopo la cessione dei diritti di voto, che vale appunto l'1,08%, ma insomma, come già raccontavo la settimana scorsa, ha esercitato l'affitto, chiamiamolo così, che aveva di questi titoli, quindi attualmente, anche quando sarà discesa, resterà al 3,4% di Intesa San Paolo dopo il GR24. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora commentiamo la borsa e le variazioni principali le abbiamo già date. Paolo Paronetto, buonasera. Radio Cori sulle 24 ore. Ripeto, per la quarta volta Wall Street chiusa per il President Day. Allora, Generali e Intesa dopo l'annuncio del rafforzamento temporaneo, perché appunto adesso è al 4,5, poi tornerà al 3,4%. Generali dentro Intesa, prego. Sì, esattamente. Generali questa mattina ha comunicato questo rafforzamento, poi appunto si è chiarito che è solo temporaneo. Comunque diciamo che la posizione di Intesa è stata mantenuta anche al termine dell'operazione di prestito titoli, quindi continua a essere un fattore che limita la speculazione su possibili mosse di Intesa San Paolo su Generali. Quindi oggi il titolo ha perso un altro 1,41%, proprio risentendo di della mancanza di appeal speculativo che l'aveva sostenuto in molte delle più recenti sedute. Ancora, infatti Generali è il terzo peggior titolo, le variazioni oggi non sono grandissime, a meno 1,40%. Poi Terna oggi ha diffuso il piano industriale 2017-2021 che prevede, Terna gestisce la rete elettrica italiana, la parte infrastrutturale, non quella dell'Enel, ma insomma prevede 4 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 5 anni, più 30% rispetto al piano precedente, e questo per ammodernare e sviluppare la rete elettrica. Ricavi attesi in crescita del 2% all'anno, con un obiettivo di 2,3 miliardi, prevista anche una crescita del 3% dei dividendi, con un payout complessivo, che vuol dire la parte di utile che viene distribuita, intorno al 70%, intorno al 70%, di poco inferiore al 70%. Il titolo. Sì, il titolo ha reagito bene a queste indicazioni che, come sintetizzavi tu, sono tutte di crescita sia sul fronte dei ricavi che dei margini che del dividendo. L'azione è salita alla fine dello 0,96% a 4,412 euro, quindi in un mercato sostanzialmente piatto è stata comunque una variazione positiva rilevante. Titolo Fiat Chrysler, andiamo su chi più ha guadagnato. ST Microelectronics da un lato e Fiat Chrysler dall'altro. Sì, sui temi macroelettronici non c'è stata nessuna notizia particolare, il titolo è accelerato sul finale e alla fine è stato il migliore di giornata con un rialzo del 2,11%, Fiat Chrysler invece positiva fin dall'avvio, ha chiuso a più 1,41%, qui è sempre il fermento nel settore auto europeo per la possibile operazione tra Peugeot e Opel che anima il comparto ormai da qualche giorno. Oggi a livello europeo i titoli del comparto sono stati più o meno in ordine sparso, sono andati il settore che complessivamente ha chiuso a più 0,2, è andata bene Volkswagen a Francoforte, invece la stessa Peugeot è stata colpita un po' dai rialzi a Parigi e ha chiuso in calo. Ancora altri titoli, tra l'altro Telecom Italia oggi ha confermato di non aver presentato offerte per il bando Infratel, quindi va avanti da sola con la banda cosiddetta ultra larga, vuole arrivare al 95% delle abitazioni entro il 2019, incrementando il piano di copertura. Dicevo, per quello che riguarda Terna appunto più 1%, Eni più 0,90, Exor più 0,80, Brembo pure, Finecobank più 0,55, bene anche Moncler più 1,24. Invece sul fronte opposto, di nuovo molto forte l'aeroporto Guglielmo Marconi, più 11,40%, 17 euro. Novità sulla vicenda Save? No, oggi non abbiamo registrato, gli operatori non registravano novità, però il titolo, come ricordavi tu, è sotto i riflettori ormai da un po', è già la seconda o la terza seduta di forti rialzi e quindi naturalmente l'attenzione rimane molto elevata. Tra gli altri maggiori rialzi che segnalavi, segnalerei anche il debutto sull'AIM Italia di Telesia. Esatto, stavo arrivando, più 9%. Che ha chiuso il rialzo del 9%. Bene, quindi Telesia, Sintesi più 8,90, Full Six più 8,15 e la Juventus più 5,12%. H-Farm recupera con il 5%, fronte opposto Novare più meno 6,30, Unilever meno 6, Invest meno 5, Energy Lab meno 4,80%. Grazie anche a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. E andiamo adesso sull'Eurogruppo, da un lato, e il vertice Ecofin di domani. In realtà il tema è la Grecia, tanto per cambiare, ma anche i conti italiani, perché dopo un entusiasmo iniziale, ricorderete la settimana scorsa, il miglioramento statistico, come dato statistico del nostro PIL nel 2016, che era arrivato invece allo 0,9 invece che 0,8 e poi corretto per giorni lavorativi, ha fatto pensare a tutti che poteva essere un po' più morbida la manovra chiesta dall'Europa, quei 3 miliardi e 400 milioni che equivalgono allo 0,2% di PIL, perché il deficit si misura in rapporto al PIL. In realtà l'Europa ha fatto sapere venerdì che tutta questa differenza non vi sarebbe stata e anche appunto i conti pubblici italiani saranno oggetto e sono dell'Ecofin domani e dell'Eurogruppo di oggi. Allora, iniziamo dalle notizie di cronaca. Da un lato, come dicevamo in apertura, è tornato a salire lo spread francese rispetto ai BTP a 10 anni, ai Bund a 10 anni tedeschi. È arrivato al livello più alto dall'agosto 2012, 81 punti. Perché? Perché gli ultimi sondaggi in Francia danno Marine Le Pen al primo ballottaggio, alla prima tornata, scusatemi, non al ballottaggio, al 27% al primo turno contro il 20% che avrebbe sia François Fillon che Emmanuel Macron, diciamo l'outsider. È risalito leggermente anche il nostro spread a 190 punti, sopra 190 punti, non li vedeva da lunedì scorso, e questo è il primo aspetto. Poi c'è il rapporto Standard & Poor's, un report sull'Italia e sui titoli di Stato dell'area euro. Dice, per quello che riguarda l'Italia, dice: è invischiata in uno stallo politico che potrebbe rendere il 2017 un anno perso dal punto di vista delle riforme di cui il paese ha molto bisogno, lasciando i populisti, cito testualmente, non sono parole mie, i populisti del Movimento 5 Stelle a sostenere che lasciare l'euro risolverebbe i problemi economici dell'Italia. Devo dire che c'è anche la Lega, Standard & Poor's dimentica che diamo merito a quello che dice Salvini, che anche la Lega è per l'uscita dall'euro e per il ritorno alla sovranità. Non entro sul tema. ma saluto in collegamento con me da Bruxelles la mitica Adriana Ceretelli. Buonasera. Buonasera. Allora, dopo il traffico, Adriana, ti chiedo un minuto di pazienza, ascolteremo alcune dichiarazioni di Juncker oggi, quindi presidente dell'Eurogruppo, della Commissione Europea, e anche del nostro ministro dell'economia Padoan, ripeto, Grecia, ma anche conti pubblici italiani oggetto del di Eurogruppo e dell'Ecofin. Focus Economia. L'aggiustamento è strutturale, quindi anche eventuali miglioramenti delle stime, che peraltro si possono prevedere, non hanno impatto sull'aggiustamento strutturale. Tutte le informazioni sono state già anticipate nel Winter Forecast, in cui, come sapete, nella scheda italiana si prende atto dell'impegno del governo a fare un aggiustamento, e quindi mi aspetto che questo sia il messaggio. Allora, il ministro Padoan, Adriana, ha chiarito che al di là del miglioramento del PIL rispetto alle attese, e siccome l'Europa ci contesta il deficit strutturale, se ho ben capito anch'io, non cambia l'entità della manovra, no? 3 miliardi e 400 esatto, milioni. Certo. Adriana? Sì, assolutamente sì. Così stanno le cose. Il deficit strutturale prescinde naturalmente dalle variazioni congiunturali, quindi la manovra resta 3,4 miliardi, lo sforzo dello 0,2. Sì. Una buona notizia su questo arriva dalla Consip, che è la centrale di acquisti per la pubblica amministrazione, sì, che nel 2016 ha risparmiato 700 milioni di euro, e visto che qua si vanno a contare anche i singoli euro, su una manovra correttiva, su una correzione da 3 miliardi e 400 milioni, sono 700 milioni di euro in meno. Per accise, e se abbiamo capito bene dove andrà la parte manovra, accise sui carburanti, magari sigarette. C'è una frase invece del ministro Padoan che tu potresti magari anche interpretare, perché gli hanno chiesto se c'è il rischio che la manovra chiesta dall'Unione Europea non venga adottata a causa della situazione interna al PD, e lui ha risposto: va chiesto ai parlamentari del Partito Democratico. Questo timore, cioè, unito anche al report di Standard & Poor's, è presente a Bruxelles, cioè che la situazione politica italiana, in questo caso, in quello che è il partito di maggioranza relativa e il partito di governo, e di maggioranza soprattutto nel governo, viene vista con preoccupazione? Assolutamente sì, ma non da oggi, ma il problema è che purtroppo la sensazione è che più passa il tempo, più la situazione italiana si stia ingarbugliando. E questo naturalmente preoccupa per il quadro di instabilità politica del paese, perché instabilità politica fa rima con instabilità economica, purtroppo, e finanziaria, e avendo il nostro spread in movimento in un contesto europeo dove anche altri spread sono in movimento, la Francia prima di tutto, sempre per ragioni politiche, Marine Le Pen assolutamente in testa ai sondaggi. Tutto questo naturalmente crea preoccupazione a Bruxelles, ma in generale nell'Eurogruppo, proprio perché in gioco è la stabilità dell'Eurozona. Stiamo parlando della terza economia dell'euro nel caso dell'Italia e della seconda economia nel caso della Francia. Ora, per carità, gli spread francesi si muovono, ma sono ancora lontani dai nostri, sono ben meno della metà, ma non c'è dubbio che tutti questi segnali, uniti al fatto che il problema greco in sostanza si è cronicizzato, anche se oggi, diciamo, i segnali sono di relativa schiarita, nel senso che i negoziati riprenderanno settimana prossima, ma insomma la situazione generale è tale per cui si sa che questo 2017 sarà un anno estremamente difficile per l'Europa e anche per la stabilità dell'Eurozona, e per questo non si vuole che ci siano degli incidenti di percorso, si spera che si arrivi a degli accordi ragionevoli, proprio per evitare di eccitare i mercati oltre il dovuto. Allora, veniamo alla Grecia, che è l'altro grosso tema di questi due incontri, Eurogruppo e Ecofin. Non c'è accordo al momento tra l'Unione Europea e Grecia sulla revisione del piano di salvataggio. Come abbiamo ricordato la settimana scorsa, sono a rischio 7 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, di finanziamenti, anche perché Atene deve pagare entro luglio 7 miliardi di euro. Non è detto che le nuove risorse arrivino in tempo. Nel quarto trimestre la Grecia è tornata in recessione, meno 0,4%. Dal Fondo Monetario Internazionale e anche dall'ex capo economista Blanchard sono arrivate critiche pesantissime al modo in cui l'Europa sta gestendo la crisi greca, dicendo dopo 7 anni non è cambiato nulla, siamo sempre lì. La Grecia, il piano che avete chiesto alla Grecia è talmente soffocante che non ce la farà mai a ripagare gli investimenti, e infatti è tornata in recessione. E invece il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il Falco, ha detto no, la Grecia deve tornare innanzitutto a essere più competitiva. Das Entscheidende ist, dass Griechenland sich wirtschaftlich so entwickelt, dass es seine... La questione decisiva è che la Grecia si sviluppi economicamente in un modo che la renda competitiva. In questo momento il debito non è il problema più urgente del paese, in quanto è finanziato a lungo termine. È molto importante che la Grecia ottenga di nuovo la fiducia dei mercati, ma ha bisogno soprattutto di maggiore crescita e di meno disoccupazione. Griechenland braucht mehr Wachstum und weniger Arbeitslosigkeit. Fa impazzire Schäuble perché dimentica che la minor crescita e disoccupazione è anche la conseguenza di tutto il piano di rientro che l'Europa, la Troica, perché c'era anche dentro la BCE e il Fondo Monetario, hanno imposto alla Grecia. Tu però facevi intuire che sulla Grecia si prende tempo, Adriana, o ho capito male io? Sì, no, secondo me il problema greco è un problema caldo, anzi direi bollente, perché come tu dicevi ci sono questi famosi 7 miliardi da pagare in estate, e non dimentichiamoci che sarà a luglio, cioè a 2 mesi dalle elezioni tedesche, e quindi naturalmente sarà più complicato andare incontro alla Grecia da una parte. Dall'altra, il fatto che quella frase che tu citi di Schäuble, che dice è importante la competitività ed è più urgente del debito, no? Questo è secondo me un segnale che la dice lunga, nel senso che cioè di parziale apertura. La Grecia sarà tenuta sulla corda purtroppo per ragioni elettorali tedesche, ma nessuno farà fallire la Grecia e i soldi saranno trovati, io di questo ne sono assolutamente certa, con degli escamotage che si inventeranno di volta in volta. Il Fondo Monetario sembra in qualche modo, pur nonostante tutte le critiche all'Europa eccetera, disponibile a rientrare nella partita. D'altra parte è ovvio che la logica del Fondo Monetario è totalmente diversa rispetto a quella dell'Europa, perché il Fondo Monetario deve rispondere ai suoi azionisti, che sono in schiacciante maggioranza extraeuropee, e ha anche dei vincoli di statuto che non gli consentono di aiutare a sostenere un debito insostenibile. Quindi diciamo che il pasticcio è enorme, perché c'è un pasticcio, se si vuole, finanziario, poi c'è anche la Grecia. Il ministro greco oggi ha detto chiaro: noi siamo disposti a legiferare sulle misure che ci chiedete, a patto che entrino in vigore dal 1 gennaio del 2019, ma a condizione che abbiano un impatto sul bilancio neutrale. E anche questo è un altro problema che per una volta sembrerebbe invece essere stato superato, nel senso che lo stesso Dijsselbloem, il presidente dell'Eurogruppo, ha detto che il prossimo pacchetto di misure dopo la revisione eccetera per la Grecia non sarà solo rigore, ma ci saranno anche misure di tipo sociale eccetera. Cosa voglio dire? Che nella confusione generale in cui tutti tirano la corda da una parte, dalla propria parte, perché c'è chi ha le elezioni, c'è chi deve rispondere agli azionisti a Washington eccetera eccetera, comunque nessuno ha interesse a far saltare la Grecia, nessuno vuole sentir parlare di Grexit, e quindi si cercherà come al solito una soluzione provvisoria, raffazzonata, all'europea, che non sarà la soluzione ideale, ma che in una volta si diceva l'italiana, adesso si dice l'europea. Sì, no, esatto, ed è proprio questa la tragedia. Una volta si diceva una soluzione raffazzonata all'italiana, adesso esatto, tu stessa decana esatto. Dei corrispondenti da Bruxelles, no, dici, ecco, dici sì. Decana nel senso dell'esperienza, ci mancherebbe, dici certo, raffazzonata all'europea. Certo. Senti, però insomma, prego. L'importante è non andare a finire in una rottura, ecco. Io non vedo una rottura, vedo dei negoziati tormentati, delle drammatizzazioni, per eccetera, motivi eccetera, politici anche ma non, interni. nella sostanza la volontà di una rottura, certo, da nessuna parte. Adriana, un'ultima domanda, perché adesso vedo un report della Deutsche Bank, il senior economist Marco Stringa, ripreso da varie agenzie, dice: l'Italia è il rischio principale per l'area euro. La scissione del PD, la possibile divisione del PD avvantaggerebbe gli euroscettici, il mercato potrebbe interpretare la scissione del PD negativamente facendo aumentare lo spread. Secondo l'analisi, le possibilità di uno sviluppo negativo in Francia nel breve, in Italia nel breve medio termine è maggiore di quella di una vittoria del Front National di Marine Le Pen. Ecco, su questo, le prime scadenze che abbiamo sono le elezioni olandesi e 15, francesi. E francesi, poi i tedeschi arriveranno a settembre, ma posso dire che in Germania, stante così le cose, se la giocano Schulz in vantaggio su Angela Merkel, ma sono due partiti, diciamo, che non sono destabilizzanti per l'Europa, mentre in Francia bisogna, da quello che vediamo nei sondaggi, chi vuole che la Francia resti in Europa deve aggrapparsi al secondo turno, cioè, la vedremo più in Francia il giro di boa eventuale che in Germania? Di sicuro il grande, ma il primo grande test è quello olandese. Sì. Bisognerà vedere il 15 di marzo che cosa succede, se Wilders vince, come pare che vincerà, ma in che termini vince? Con dei margini sufficienti a governare, o sarà costretto alla coalizione, o sarà espulso dalla coalizione che nascerà, perché anche lì si vota col proporzionale, quindi è difficile immaginare prima quali saranno la fotografia del nuovo governo. Se dovesse, diciamo, prevalere una nota anti-euro, perché anche Wilders è anti-euro, ecco, lì ci potrebbero essere delle ripercussioni naturalmente del tipo Brexit, voto a Trump e compagni, ma in questo caso proprio più nel cuore dell'eurozona, ancora più che dell'Europa. Anche perché l'Olanda ha sempre avuto delle politiche totalmente allineate a quelle della Germania in questi anni di crisi e di austerità. Grazie. Austerità eccessiva, aggiungo io. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni, le auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.